Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Come cambieranno i consumi nei prossimi mesi? Tra revenge shopping, italianità e attenzione al prezzo, quali elementi influenzeranno le nostre scelte d'acquisto? Ce lo rivelano i dati, i risultati di una ricerca che vi raccontiamo tra pochissimo. In questa fase 2 le principali città italiane hanno iniziato a riaprire progressivamente anche i musei e le mostre. Come per altri settori, il lockdown ha reso evidente quanto sia fondamentale per la loro sopravvivenza la digitalizzazione. Spazio dunque a una riflessione sul museo del futuro. Focus sui trend dedicato infine alla nuova dimensione contactless, senza contatto, delle nostre vite, prodotti e servizi per mantenere le distanze. Avete presente quando incrociate due begli occhi che vi sorridono e il cuore vi si scioglie come una noce di burro su pane tostato caldo? Io mi sento così quando vedo un negozio. E dopo hai un tuffo al cuore quando ti rendi conto che $320 per una muta da sub, $787 di biancheria intima. L'intimo è un diritto umano inalienabile. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Prima settimana di riapertura per negozi, bar e ristoranti. Tra nuove regole e nuove priorità, quali elementi guideranno le nostre decisioni d'acquisto, dallo shopping ai consumi fuori casa? Lo svela un'interessante ricerca che molto correttamente innanzitutto esclude dall'analisi chi si troverà in difficoltà economiche nei prossimi mesi, il 27% della popolazione italiana. Ci spiega tutto Luca Molteni, Target Research. La selezione è stata fatta attraverso due domande, quindi sulle disponibilità economiche della famiglia come percepite dall'intervistato nei prossimi 12 mesi. Nel caso in cui questa disponibilità venisse dichiarata come in riduzione oltre il 20% o un membro della famiglia fosse un nuovo disoccupato, noi abbiamo escluso le persone dall'intervista. Questo era un 20%. A cui si aggiunge una seconda risposta sulla capacità di spesa, quindi abbiamo escluso un'ulteriore percentuale di persone che ha dichiarato che avrà difficoltà ad arrivare a fine mese e quindi dovrà tagliare le spese per beni non di prima necessità. In pratica, dei 2036 rappresentativi della popolazione abbiamo tagliato il 27% che ha dichiarato queste difficoltà. Guardando alle scelte di consumo future, innanzitutto avete scoperto che il cosiddetto revenge shopping, di cui tanto si parla, interesserà un italiano su 5 fra quelli con capacità di spesa. Si tratta del 20% proprio di questo 73% che è passato alla parte core dell'intervista. Vuol dire circa un 15%, sono 14-15% della popolazione complessiva. Non voglio dire che sia poco o tanto, dico soltanto che c'è un cuscino, diciamo, una parte della popolazione che avrà una reazione, un impulso importante verso il consumo. In evidenza tra i driver di acquisto, origine dei prodotti e convenienza. Assolutamente sì, il 58% di questo campione ha dichiarato una forte attenzione prospettica alla provenienza dei prodotti che acquisterà. Ha parlato sia di provenienza italiana, sia addirittura in alcuni di questi intervistati provenienza locale, sia ha parlato più genericamente di attenzione all'origine dei prodotti. Questo è molto importante. La seconda cosa è il tema dei costi, diciamo, del prezzo, dell'attenzione al prezzo. È vero, però sottolineo un aspetto. Uno dei comportamenti che, diciamo, è stato, come dire, dichiarato in maniera più rilevante è l'attenzione al rapporto qualità-prezzo. Sicuramente una maggiore attenzione nella scelta scelta del prodotto, ma non dimenticando la qualità. Avete indagato anche il tema vacanze e consumi fuori casa, quindi turismo e ristorazione, i settori più colpiti dall'emergenza sanitaria. Con quali evidenze? Sicuramente le tendenze che non ci sorprendono e che emergono per quanto riguarda i viaggi, le vacanze d'Italia da uno su due che le potranno fare saranno privilegiate e possibilmente in luoghi meno conosciuti e meno affollati. Quindi le località magari un po' più tradizionali della movida del passato probabilmente per un 39% di chi ci ha risposto saranno meno preferite. Chiaramente c'è una parte della popolazione che dice che non viaggerà sicuramente per i prossimi 12 mesi, quindi di questo 73% che, come dire, avrà una certa disponibilità economica, uno su cinque ha dichiarato che non viaggerà. E comunque c'è un'idea di limitare le uscite. Per i ristoranti, per esempio, viene indicato un periodo dalla maggior parte degli intervistati, un 29%, un periodo di 6 mesi almeno per ritornare al ristorante. Ovviamente un quarto vuole andarci subito, ma c'è il 28%, per esempio, che dichiara che aspetterà almeno 6 mesi, a cui si aggiunge un altro 14% che parla di un anno, cioè un 42% di persone che non sono molto convinte di andare prima di 6 mesi al ristorante. Chiaramente la casa, a casa cucinando, rimane la scelta migliore percepita nel breve. Interessante anche l'interesse dal cibo da sporto col 42%. Per quanto riguarda abbigliamento, accessori e arredo, la sfida tra on e offline, questo è il focus della mia domanda, come si giocherà? Lei ha centrato, secondo me, il punto più interessante, penso, della ricerca, perché al di là della misurazione di una certa percentuale che dichiara una diminuzione leggera della spesa, cioè il 24%, 1 su 4 nei prossimi 12 mesi per le spese di abbigliamento e scarpe, la cosa interessante è che il 43% prima del lockdown dichiarava che essenzialmente andava a comprare sul punto vendita. Questa percentuale scende al 38% nella prospettiva dei 12 mesi. Ma la cosa interessante è la crescita dell'online puro. L'online puro passa da un 22% nel dichiarato a un oltre 29%, cioè in termini percentuali potrebbe essere un incremento di circa il 30-35% di peso. Cambiamo argomento. Sapete che solo un museo su 10 in Italia ha digitalizzato il proprio patrimonio artistico, solo uno su 3 ha il proprio sito. L'esperienza di queste settimane ha dimostrato, casomai ce ne fosse ancora bisogno, quanto gli strumenti digitali, dall'utilizzo dei big data alla realtà virtuale, siano fondamentali per ripensare il nostro approccio alla cultura, iniziando a disegnare fin d'ora il museo del futuro, anche e soprattutto al di fuori dai grandi flussi turistici. Una riflessione che ci ha proposto Duccio Vitali di Alchemy, società specializzata nella digitalizzazione di cultura e formazione. In generale il turismo culturale, quindi l'indotto legato alla cultura in Italia, vale circa 100 miliardi di euro all'anno, quindi è un valore molto importante. Chiaramente questa crisi, non soltanto adesso, ma in realtà se la proiettiamo almeno per tutto il 2020, forse anche per il 2021, avrà sicuramente un impatto forte, in quanto quantomeno i turisti, diciamo, sarà più difficile che vengano in Italia. Una delle prime riflessioni è che questa qua comunque sia può rappresentare un'opportunità, questa urgenza per il mondo della cultura, per fare anch'esso quel salto, tra virgolette, verso la digitalizzazione, che possa consentire quindi di migliorare, di rendere in qualche modo il nostro patrimonio culturale, da un lato più competitivo, tra virgolette, rispetto all'offerta di altri paesi, ma dall'altro lato anche fruibile, non necessariamente, diciamo, fisicamente, ma anche che abbia una possibilità, diciamo, di migliorare l'esperienza fisica col digitale, ma anche di essere fruito in qualche modo anche col digitale da fuori. A oggi l'offerta museale è sostanzialmente, adesso esagero, ma una fotografia portata sul digitale. È chiaro che questo non si presta ad essere fruita da remoto, laddove invece nel momento che io creo un'esperienza più a 360 gradi, questo diventa sicuramente più fattibile. Diciamo che l'Italia ha un po' vissuto, se vogliamo, dei propri allori, nel senso che noi abbiamo un patrimonio patrimonio museale che è 4 volte quello del Regno Unito, 5 volte quello della Francia, abbiamo più patrimoni di UNESCO di chiunque altro paese al mondo in realtà, e quindi sostanzialmente non abbiamo avuto tutta questa esigenza poi di arricchire un'esperienza, perché uno va, come dire, a Pompei o vede il Colosseo o agli Uffizi, e quindi noi siamo stati un po' pigri in quest'ottica, e diciamo questa crisi sicuramente pone l'attenzione invece su un tema che diventa importante, quindi io sono abbastanza fiducioso che possa innescare. Chiaro che ci vogliono tante cose, ci vogliono competenze diverse nel mondo della cultura, quindi non soltanto competenze legate poi al contenuto, ma in realtà legato anche all'esperienza, ci vogliono investimenti, quindi ci vogliono tante cose, però sicuramente un primo passo credo che sia stato fatto, quantomeno la discussione in atto. Parola d'ordine contactless per la nostra quotidianità, dalla strada al ristorante, un'esigenza che fa nascere nuovi prodotti e servizi. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Nuovi equilibri tra on e offline anche nei consumi, dunque ripartiamo da qui per la seconda parte di Essere Avere. Sapete che durante il lockdown non tutto l'e-commerce è andato a gonfie vele, nonostante un aumento degli acquisti il 54% delle aziende del settore ha visto un calo del fatturato che mediamente si è dimezzato, solo il 21% lo ha incrementato, lo rilevano i dati del REP. Report 2020 della Casaleggio Associati. Luca Eleuteri. E-commerce è un fenomeno che anche nel 2019, così come da 14 anni a questa parte, è cresciuto sempre a doppia cifra. Infatti la crescita era attestata intorno al 17%, per un totale di pensato di circa 48 miliardi e mezzo. Diciamo che la pandemia e il coronavirus hanno completamente stravolto questi trend. I tre settori più forti erano quelli del turismo, del tempo libero e nonché anche quello della moda sono completamente cambiati, sono stravolti. Oltre la metà delle aziende in realtà registra una perdita del fatturato e sono circa il 25% quelle che segnalano invece un incremento di fatturato. 25% che va ricondotto a quello che il lockdown non è riuscito a fermare ma altre si è amplificato. Vale a dire, parliamo di un incremento nell'ambito dell'alimentare, il tempo libero che si conferma con una crescita ancora maggiore, soprattutto dettata dal fatto che le persone sono chiuse in casa, e sicuramente anche quello legato alle telecomunicazioni, cioè l'utilizzo del mobile. C'è stato sicuramente un ampliamento della base di persone che hanno fatto esperienza nell'acquisto digitale, che hanno superato lo scoglio del primo acquisto, del pagamento e così via, per cui sicuramente non torneremo ai livelli di prima di questa crisi, avremo un incremento generalizzato della confidenza nella digitalizzazione in base alla popolazione. Negli Stati Uniti nel 2009 e il 2019 si è passati nell'ambito dell'e-commerce dal 5,6% al 16% e nelle ultime 8 settimane siamo saliti al 27% di penetrazione nell'ambito del sale. Quindi il passo che è stato fatto in otto settimane praticamente è equivalente a quello degli ultimi 10 anni. Focus sui trend. Distanziamento sociale e contactless, le parole d'ordine della fase 2 in cui torniamo a riprenderci progressivamente le nostre vecchie abitudini ma con nuove modalità. La prevenzione disegna nuovi prodotti, nuovi servizi e nuovi stili, nuove cifre di comunicazione e promozione. Lo dimostrano i casi che ha selezionato per noi Luisa Schiaro di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao Maria Luisa. E come sempre buonasera agli ascoltatori. Iniziamo dalla comunicazione con i brand distanziati, chiamiamoli così, raccontaci. Sì, davvero interessante come alcuni brand iconici, diciamo, abbiano compreso quanto fosse importante anche lanciare un segnale molto forte di solidarietà in qualche modo e nello stesso tempo di promozione rispetto a quello che stai dicendo di un distanziamento fisico, insomma, durante la pandemia. E quindi vediamo che hanno agito proprio alla fonte di quello che è la loro essenza, sul logo. Ecco che le case automobilistiche, in particolare le tedesche, sono state tra le prime a lanciare queste novità, diciamo, questa leggera modifica molto visibile al logo, per cui Audi, per esempio, ha fatto delle campagne in cui i quattro anelli erano ben distanziati tra loro, con poi un messaggio: mantieni la distanza e rimani a casa, stai in salute, ci siamo tutti dentro insieme, una cosa così. Piuttosto che Volkswagen, anche, che ha rivisitato il logo in maniera molto simile, aumentando in questo caso lo spazio tra le due lettere, la V e la W nel logo, con una frase quasi di ringraziamento, proprio grazie per mantenere le distanze. Mercedes allo stesso modo, insomma, ha rimpicciolito la stella, quindi ha aumentato la distanziamento tra la sua famosa stella tre punti e il cerchio. E infine anche il mondo del food, McDonald's in Brasile in particolare, sulla sua pagina Facebook ha disegnato proprio il logo super iconico con gli archi dorati distaccati tra loro, che si mantenevano in piedi tra virgolette ma lontani. E Coca-Cola, che a Times Square a New York, un grande pannello distanziava i caratteri della parola appunto Coca-Cola con un messaggio molto chiaro: rimanere a distanza è il modo migliore per restare uniti. Bello anche perché comunque un messaggio positivo. Li abbiamo ripostati tutti nella gallery sulla nostra pagina Facebook. Passiamo a un accessorio, un attrezzo che viene incontro a un'esigenza quotidiana. Chi di noi non si è trovato in questo periodo ad aprile a cercare di aprire una porta senza toccare la maniglia? Questo è un gesto che oltretutto difficilmente si impara anche, no? Cioè, perché non fa parte della nostra quotidianità, il fatto di stare attenti a non toccare per non essere in qualche modo poter essere contagiati dal virus. Ecco che Matteo Zaglio, che è un designer che ora vive e pratica all'università di Stanford, ha creato Handy, che letteralmente significa portata di mano e maneggevole. È un dispositivo, tra l'altro, open source, è anche accessibile perché può essere stampato con una stampante in 3D anche a casa. È sostanzialmente un attrezzino che crea una vera e propria barriera fisica tra le nostre mani e le superfici che dobbiamo necessariamente toccare. Cioè, da un lato si impugna con la mano, con due dita si infilano in questo piccolo attrezzo, tra l'altro molto leggero e maneggevole, e dall'altra parte c'è una sorta di uncino, qualcosa di simile, che consente di aprire la portiera dell'auto, spingere una porta, quindi fare in tutta sicurezza queste azioni, anche perché poi, tra l'altro, disinfettabile molto facilmente. Ultima cosa, che però per chi è mancino è rilevante, è che può essere utilizzato sia da persone destrorse che mancino, perché tante volte i designer non si ricordano che esistono anche tante persone che sono mancine nell'utilizzo degli oggetti. Stessa esigenza, soluzione diversa per un'altra situazione quotidiana: l'attraversamento pedonale. È una soluzione simile, ma che fa riferimento, tra l'altro, a una realtà molto precisa, che poi in teoria potrebbe anche essere esportato altrove, perché Push è stato realizzato da un designer di origine olandese, Thor ter Kulve, che però vive a Londra, e quindi anche in questo caso, dall'osservazione del quotidiano, ha cercato di intervenire in un gesto molto quotidiano per i londinesi, che è quello di schiacciare il pulsante del semaforo ogni volta che si deve attraversare la strada. E quindi ha realizzato nel suo studio, con materiali anche molto semplici, acciaio leggero, una grande leva che si può appoggiare al palo del semaforo, e con il ginocchio, con il braccio, il gomito, non so, un bastone, può fare questa attività, cioè di schiacciare automaticamente il pulsante, poi ritorna in posizione e può essere quindi riutilizzata n mila volte, e consentendo di nuovo questa sorta di distacco fisico dagli oggetti nelle azioni molto quotidiane, ovviamente. In chiusura, un'altra soluzione intelligente per un approccio contactless, appunto, questa volta siamo al ristorante. My Contactless Menu è proprio una nuova, diciamo, app con una nuova serie di funzioni che sostituisce completamente il menu cartaceo. che obiettivamente riusciamo tutti quanti a comprendere come sia di difficile igienizzazione sicura. È un menu digitale che ha, pensate, addirittura una traduzione istantanea in 60 lingue. Il cliente lo può visionare attraverso una scansione con lo smartphone di un QR code che troverà sul tavolo del ristoratore e visualizzarlo già nella sua madrelingua. Si può con questa app prenotare online il tavolo direttamente. E inoltre c'è anche una funzione ulteriormente contactless che è quella di order and pay by phone, quindi gli ordini vengono fatti direttamente sul proprio smartphone, si riceve il conto in formato digitale e si paga tutto attraverso il cellulare, evitando quindi passaggi, diciamo, di mano in mano, anche in questo caso, di carte piuttosto che altre comande, insomma, strumenti di pagamento. Luisa Schiero, grazie, alla prossima. Ciao, arrivederci. Il consumautore. Torniamo alla collocazione finale con la riflessione in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, nel mondo dei consumi, ma non solo, in quello istituzionale, così come della formazione e del lavoro, si fanno i bilanci della cosiddetta fase 1 che abbiamo attraversato. L'intento è quello di sottolineare il meglio per non farci trovare impreparati in futuro. Tu, Francesco, mi hai anticipato una sottolineatura al femminile. Sì, buonasera Maria Luisa e radioascoltatori. È una sottolineatura importante perché dopo ormai 3 mesi di questa vicenda è emersa con grande forza una superiorità femminile di cui poi spesso parliamo, no? Anche nel consumo e nelle scelte quotidiane. Sicuramente il mondo femminile ha saputo reagire in modo più adeguato a tutto quello che abbiamo vissuto in questi mesi, a partire dalle scelte anche politico-istituzionali. Io aprirei questa riflessione facendo un ragionamento su quei paesi, Nuova Zelanda, Danimarca, Norvegia, Finlandia, anche la stessa Germania, che governate con dei premier donne hanno veramente saputo reagire molto bene. Basta contare il numero di contagi e di deceduti che sono enormemente più ridotti rispetto ad altri paesi che hanno avuto, come dire, una visione più maschile e più muscolare. Questo ci fa pensare e ci fa capire che probabilmente proprio nei momenti di difficoltà che il mondo femminile emerge con grande forza e dimostra, diciamo, una capacità che anche in tempi normali c'è, ma che troppo spesso viene un po' dimenticata. Da sempre la cultura del rischio, del resto, è diversa al femminile e al maschile. Ma quali sono le parole chiave di questo approccio al femminile? Guarda, questo è interessante perché proprio in questi giorni cominciamo a pubblicare i risultati di un osservatorio nuovo che si chiama Coming World Project, che è realizzato da Glaxi, che è un istituto di ricerca a cui noi stiamo dando anche una visione, diciamo, più teorica, ed emerge che il mondo femminile, parliamo quindi proprio dei comportamenti quotidiani, si è dimostrato molto più resiliente, consapevole, quindi ha capito che la convivenza col virus era necessaria, lo sarà anche nei prossimi mesi, mentre quello maschile ha dimostrato anche una rimozione, ha cercato quasi di ignorare il problema ed è quello che vorrebbe un po' tornare al mondo che c'era prima e che però probabilmente non conosceremo più. Paesi del Nord Europa tra i più virtuosi, dicevamo, guarda caso, sono quei paesi in cui l'ambiente domestico che ha contraddistinto il lockdown è vissuto bene anche al maschile. Eh sì, diciamo che questa dimensione ultradomestica, no, a cui noi siamo stati costretti ha messo in evidenza, da un lato, la capacità più femminile nel mondo, come dire, meridionale di gestire, organizzare, lavorare, studiare, avere una relazione con i figli, anche di orientamento, di come muoversi. Queste cose nel nord Europa sono spesso appannaggio anche del mondo maschile. Quindi c'è, io credo, una riflessione, diciamo uno stile di pensiero che probabilmente riemergerà da questi mesi così difficili e ci aiuterà anche ad affrontare il futuro consapevoli che un riequilibrio tra il femminile e il maschile, anche dal punto di vista dei valori, sarà importante per venirne fuori bene. È uno spazio al femminile invocato da più parti nelle stanze dei decisori, soprattutto. Sì, anche perché qui emerge anche il grande problema della scuola, no? Alcuni di questi paesi, ad esempio la Danimarca, che ha chiuso molto presto, ha però anche ormai riaperto le scuole e lo ha fatto partendo da una richiesta femminile, perché è chiaro che gestire i figli magari piccoli in casa per un tempo così lungo è molto complicato e pesa molto proprio sul mondo femminile. Quindi avere delle donne anche nei posti di comando che decidono aiuta ad avere un bilanciamento sociale più sano. Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.